quest'oggi anche gli Offspring con The Kids Aren't Alright. Allora, a proposito di Dexter, Holland e soci, vi posso dire che il 17 giugno arriverà finalmente anche il nuovissimo album intitolato Rise and Fall, Rage and Grace. Ecco un titolo, eh? Allora, Rise and Fall, Rage and Grace, ripeto, il 17 giugno, album prodotto da Bob Rock, famosissimo produttore soprattutto per aver collaborato con i Metallica. Però se andate sul sito della band www.offspring.com c'è già Hammerhead, che è il primissimo singolo già disponibile in download. Attenzione, ora 30 Seconds to Mars, questa Beautiful Lie. Allora, con Beautiful Lie, dal loro ultimo album, tra l'altro chi conosce molto bene i Cure troverà tantissime influenze appunto in questo album dei 30 Seconds to Mars, perché proprio Jared Leto ha ammesso di adorare Disintegration dei Cure, è rubato il rubabile, e la fa e si sente assolutamente sì, in molte canzoni ci sono tantissimi riferimenti, ma chi crede di farla non fa in dei Cure, eh? E magari poi dice che è tutta farina del suo sacco. Caro il mio bello e bello Jared Leto, su questo non si discute, però una grandissima testa di razzo, mamma mia, uno degli artisti forse più odiati da molti giornalisti in America. Spesso volentieri lui viene invitato, no, nei diversi show televisivi, però non lascia un buon segno, perché bello e bello, però pare che, no, anzi non pare, però ha un carattere veramente assurdo, è diventato, si è parlato un sacco di Jared Leto, anche perché vabbè, insomma, è un grande attore, sì, non lo vogliamo assolutamente mettere in dubbio, però durante un concerto inglese qualche mese fa, cioè, allora, se tu, bello come il sole, vai a cantare e ti butti in mezzo al pubblico ovvio che la furbetta in prima fila è una Palpatina te la fa. Scusami, ma questo è assolutamente normale. Uno aspetta 8 ore per entrare al tuo concerto, si fa degli sbattimenti incredibili per arrivare alla prima fila, tu le capiti davanti e una, se può, allunga anche la mano. E ha fatto assolutamente bene questa ragazza. Lui in cambio cosa ha fatto però? Le ha tirato delle microfonate assurde in testa, ma con una violenza incredibile. E ovviamente, se era già considerato una testa di razzo, questo non ha fatto che, insomma, peggiorare la situazione. Non si fa. O le fai certe cose, però poi non rompi i coglioni, detto proprio radiofonicamente, oppure stai sul palco e non ti avvicini alla gente. Caro, Courtney Love insegna. Quante palpate ha ricevuto Courtney Love ai tempi, che si buttava in mezzo al pubblico. Vabbè. Ora Serge Tankian, questa Empty Walls. Pretentious attentions, dismissive apprehensions. Don't waste your time on coffins today. When we decline from the coffin line, don't waste your time on coffins today. Don't you see their bodies burning? Yes, I let them fall. Hello, this is Serge Tankian, better known as Sergio, in Milano. And I want to say thank you to all the listeners and to the station Rock FM, and I hope it keeps on going forever. Thank you. Ciao. Yeah. come to hell. Hey brother, welcome to hell. Brother, welcome to hell. Go in un país donde todo puedes comprar. Estar vivo o estar muerto depende del capital. Mi futuro está escrito y no me puedo defender. Hey brother, welcome to hell. Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Vigentes crímenes de estado contra la humanidad. Existen derechos humanos. Basta, non facciamo più nulla, ci scegliamo, ognuno farà quello che crede, cioè altri progetti musicali, però come scappe no, basta, abbiamo finito la nostra carriera e non faremo più niente. Questo nel 2005, nel 2008 i ragazzi hanno detto, ma guarda che forse qualche album e qualche tour lo facciamo, infatti gli Scappè si sono riformati, è tornato anche Pipi che come ben sapete si era dedicato al suo attuale gruppo, i Locos, tutti insieme torneranno tra pochissimo, anzi stanno già preparando 12 nuove canzoni che faranno parte ovviamente del loro settimo album in studio, c'è addirittura già fissata una data italiana per il 13 dicembre al Palasharp di Milano per gli Scappè, quindi cari fan degli Scappè, ma che bella notizia vi ho dato, si sono riformati, album, tour, è un po' un classico, dai, quante band si sciolgono e dicono basta, facciamo il tour d'addio, ah perché gli Scappè hanno fatto anche il tour d'addio, e poi dopo un paio d'anni, magari quando i progetti, gli altri progetti non sono andati così bene, dicono ma quanto mi mancano i miei ex compagni, subito, reunion e tour, già visto, ora Avenged Sevenfold, questa Almost Easy. I'm not sta andando molto bene il loro nuovo secondo album intitolato Avenged Sevenfold. Loro appunto sono gli Avenged Sevenfold con Almost Easy, li vedremo in concerto all'interno del Gods of Metal proprio prima dell'esibizione degli headliner, quindi degli Iron Maiden all'interno della prima giornata. Loro saranno in tour con gli Iron Maiden, quindi ci becchiamo la loro esibizione prima degli Iron Maiden. Non all'inizio della giornata, non a metà giornata, no, prima degli Iron, gli Avenged Sevenfold. Un po' di saluti. Allora, Tiziano da Livorno, l'unica reunion che vorrei anche il prima possibile, grazie, è la Rock Famous Stars Band. magari. Però voglio dire, i Kiss hanno detto basta, non facevo, e poi tornati. Gli Scappi hanno detto basta, e poi tornati. At this point speriamo un giorno di poter ritornare facendo un annuncio. Speriamo, guarda, sarebbe veramente la cosa più bella del mondo. Saluto anche Andre, dice, ieri il cantante dei Nazareth è stato molto simpatico e disponibile, anche l'intervista è stata molto bella. Molto molto bella, è vero, hai ragione caro Andre, anche perché lui, ripeto, è stato talmente carino. A parte l'accento, un classico accento scozzese, non si capiva niente. Io vedo diverse volte ci siamo guardati come per dire, ma tu hai capito, vero? Traduci tu, vai. Quindi adesso la riascolteremo, però pensiamo e speriamo di aver bene o male tradotto tutto. Saluto anche il super topo volante da Pisa, un bacione, saluto anche la piccola Gabri e anche il suo compagno di classe, bravi, che ci stanno ascoltando durante le lezioni. Mannaggia, Fede da Imola, speravo di vederti a Russi il 1° maggio, peccato, i tuoi colleghi sono stati formidabili. Ma guarda, continuo a sentire delle ottime cose proprio sulla data di Russi, sono molto contenta per i miei colleghi e per il grandissimo successo. E mi hanno raccontato cose da lacrima. Bravi loro, ma bravi anche i nostri ascoltatori. Saluto il Mazza. Sì, in diverse cose le canzoni degli Offspring ricordano altre band, hai ragione. Adesso Judas non lo so, però sicuramente altri gruppi ultimamente li ricordavano spesso. Saluto anche la Contessa, Tina, un bacione. Saluto Orion da Faenza, Kill Switch Engage con la cover di Ronnie James Dio. Fantastico, assolutamente sì. Saluto anche Omar, dice, a tutti quei poveracci che come me non hanno il PC e non possono andare sul sito, resterà solo il ricordo di questa radio. Hai ragione, infatti noi invitiamo bene o male tutti ad andare sul sito e rimanere comunque per eventuali news più avanti, però non consideriamo magari spesso e volentieri che non tutti hanno il PC, però magari se riesci a scroccare da qualche amico o collega vai sul nostro sito www.rockfamily.it, caro Omar, perché è molto carino, c'è anche un bellissimo forum. Ora vi lascio con un classico, con una band che dovrebbe tornare, sono gli AC/DC, che riascoltiamo con Thunderstruck.